simple sweat, simple so that queste parole al di là del bel più prezioso ti sei tu. Al di là del soffio più ambizioso, ti sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là della stella, ci sei tu. Al di là, ci sei tu. Per me, soltanto per me. Al di là del mor più profondo, ci sei tu. Sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ti sei tu. Al di là ci sei. Per me, soltanto per me. Al di là del mor più profondo, ci sei tu. Al di là del limite del mondo, ci sei tu.